E se poi c'è Juliette, sabato 30 novembre alle ore 21 al Teatro Meloncello con Alessia De Pasquale, Filippo Marchi e Davide Russo. Oggi noi ne parliamo con Alessia De Pasquale e Filippo Marchi. Intanto buongiorno Alessia e buongiorno Filippo. Ciao, ciao, buongiorno. Benvenuti sulle nostre frequenze. Allora, la compagnia Streben porterà in scena E se poi c'è Juliette. Come nasce la compagnia Streben? Allora, la compagnia Streben intanto nasce, diciamo la data 2014. 2019. Come ci siamo incontrati nel 2014, abbiamo attraversato insieme varie peripezie e da poco abbiamo dato, diciamo, nuova vita, un nucleo di quelli che si erano incontrati allora, formando quella che è la compagnia Streben. Abbiamo da poco cambiato nome, diciamo, come possiamo dire, un'evoluzione in qualche modo. Sì, ci siamo distaccati da quella che era la compagnia principale, che avevamo già cominciato a lavorare da soli. Abbiamo deciso di ufficializzare questa cosa dandoci un nuovo nome che ha un significato, detto in parole brevi, che è un ricominciare tutte le volte da capo. Questo più o meno è il significato. Sì, Streben, intendere è una perfezione che non si raggiunge mai, è un concetto filosofico che ci è piaciuto e l'abbiamo preso come nome, ecco. Anche soprattutto per il fatto che un pochino comunque ci rispecchia, appunto per questa decisione che abbiamo preso di metterci ufficialmente in proprio. Comunque sì, abbiamo mantenuto il nostro piccolo repertorio ancora in fase di costruzione, con diversi spettacoli, alcune drammaturgie, altri invece inediti, originali. Allora siamo qui che cercheremo di andare avanti con tutta la nostra forza, la nostra grinta. Parlando dello spettacolo, l'appuntamento di domani, Juliette è il personaggio interpretato dalla nostra Alessia. Mi è sembrato di capire, leggendo un po', che sia un po' una donna fatale. Sì, lo diventa, diciamo. Diventa una donna fatale, comprometterà il rapporto tra due amici, tra due colleghi. Esatto, in realtà qua a fianco a me c'è quello che interpreta l'amico, che inizialmente non si fa sedurre, non è attratto, insomma pensa più che altro al lavoro, a sbarcare il lunario, perché sono entrambi poveri in canna, diciamo. Però la mia presenza si manderà in estasi l'altro personaggio interpretato da Davide Russo, che rimane folgorato e al primo incontro addirittura non riesce neanche a parlare. Questo lo manda totalmente in confusione e, oltre a non lavorare più, succederà qualcosa che comprometterà il rapporto. Non lo diciamo del tutto, se no togliamo la sorpresa. Elio, che è il mio personaggio inizialmente, lui è quello serio della coppia, no? Già di per sé è una coppia molto squilibrata da questo punto di vista, è quello che esce con la padrona di casa per avere sconti sull'affitto, quello che procaccia ingaggi con le testate giornalistiche per dar modo a Fabrizio di scrivere e quindi campare a tutti e due. Quindi all'inizio il mio personaggio sarà molto più concreto, esatto, pragmatico, sì. Cercherà di farlo ragionare, non riuscendovi. Questo lo porterà a vivere alcune situazioni difficili, fino alla situazione più difficile, sì, ancora di più proprio, cioè una situazione proprio più eclatante che salterà fuori verso la fine della commedia. Di triangolo si potrà forse parlare, sì, dai. Juliette è un'addestratrice di cavalli. Tu, Alessia, sei una amazzone. Sì. Quanto di Juliette è presente in Alessia? Allora, diciamo che l'idea ci è venuta, volevamo che fosse appunto una sportiva, ho detto quale miglior riferimento a quella che è anche in parte la mia vita, il mio sport da tanti anni, e ovviamente in Juliette, diciamo che è in Juliette che ho portato Alessia, diciamo che è un dare avere in qualche modo. È un'amazzone, è un'addestratrice e diciamo che traspare come poi nella mia vita quello che è la passione per i cavalli. Lei addirittura entrerà in scena anche vestita da cavallo, quindi ho un po' utilizzato anche quello che il mio armadio equestre in qualche modo, e quindi sì, per forza di cose un pochino di me c'è in lei e viceversa. Leggendo la trama mi è venuto in mente un po' il tema della femme fatale, non so se ho centrato. Pensando a questo mi è venuto anche in mente, ad esempio, una femme fatale per eccellenza, che è Juliette Greco. Pensando a Juliette, ti chiedo se E se poi c'è Juliette si ispira in particolare alla storia di qualche donna irresistibile, o è più semplicemente il mito di una figura un po' enigmatica, forse anche minacciosa, misteriosa, ma assolutamente affascinante. L'uomo, passatemi il termine, chiedo scusa agli ascoltatori, ha lupato, nel senso, appena appare una femme fatale è capace di mandare all'aria tutto quanto, ed è quello che succede appunto al personaggio di Fabrizio. Quindi direi proprio che è la seconda ipotesi che hai illustrato. Diciamo che lei diventa fatale nel momento in cui l'altro perde la testa, e poi anche lei ci giocherà a un certo punto. Lei diventa, all'inizio diventa fatale senza saperlo, senza volerlo, cioè, capito? Sì. Lei si presenta come nuova vicina di casa, non potrà mai mai immaginare cosa potrà passare. È una cosa tutto che questo si sviluppa durante lo spettacolo. Io vi chiedo un sogno o un augurio per questo spettacolo teatrale e per i prossimi della compagnia Streben. Auguro a me stesso come artista di continuare a lavorare con questa compagnia, con Alessia, con Davide, anche con questo spettacolo, certo Juliette, ma poi soprattutto con una serie di progetti che sono in vista, che si stanno mettendo in piedi e che adesso, senza dire più di tanto, promettono bene, quindi cercheremo di fare in modo di metterli in scena, di portarli in giro il più possibile e soprattutto di portare la gente a teatro. Ecco quello che mi auguro di riuscire a fare, ma ti parlo proprio nella mia vita, di portare la gente a teatro. Abbiamo debuttato sabato scorso a Modena con uno spettacolo sui racconti di Gogol, che tra l'altro faremo a Bologna il 25 febbraio al Teatro degli Angeli, ed è stato meraviglioso, nel senso che io avevo paura sinceramente di fare questo spettacolo, perché i racconti di Gogol in pochi lo conoscono, magari alcuni magari l'hanno sentito, sentivo molto scetticismo al riguardo, però la gente che è venuta è stata molto contenta ed è uscita da lì con un qualcosina in più. Non voglio fare lezioni a nessuno, però ecco, credo che questo sia il teatro ed è il motivo per cui lo voglio fare, quindi io mi auguro di continuare a fare questo e soprattutto di continuare a farlo con la compagnia Streben. Sottoscrivo anch'io. Il mio augurio generale, quello che mi faccio sempre, è che la gente si appassioni sempre di più al teatro, che torni a teatro. Bologna è stata per tanti anni in passato una città molto teatrale, è ancora culturalmente viva, però il teatro soprattutto dai giovani viene, passatemi il termine, un po' snobbato. Invece noi vorremmo che sempre di più la gente venga a teatro e spero che anche l'offerta diventi sempre migliore per poi avvicinare le persone. E soprattutto per la nostra compagnia mi auguro che questa produzione di cui parlava Filippo, Gogol Unplugged, abbia sempre più vita, perché oltre personalmente ad amarla ed essere una sfida come attrice, è un qualcosa che veramente può far conoscere un autore classico importantissimo ma poco conosciuto, e anche in un modo originale, perché abbiamo un musicista che suona dal vivo. E soprattutto mi auguro che questa novità, di cui ancora non possiamo dire nulla ma abbiamo la certezza, nel senso diremo, sveleremo più avanti, abbia il successo che merita, perché siamo riusciti ad avere una collaborazione molto importante. Avremo anche un bel debutto e mi auguro che quello sia l'inizio di un grande successo per questa nuova, diciamo, per questa sorpresa. E soprattutto mi è venuto in mente, scusate, avvicinarsi al teatro in qualsiasi forma. Giulietta è una commedia, è una commedia brillante, leggera, forse non ha neanche tanti significati da voler tramandare, però anche qui sta la bellezza, sì. Anche qui sta la bellezza del teatro, quindi il teatro è per tutti, non è solo per chi vuole impegnarsi, cioè è anche per loro, però è per tutti, quindi assolutamente. Sì, noi poi passiamo appunto da Giulietta a Gogol e quindi cerchiamo di dare un'offerta ampia, ed è il bello del teatro. Se le cose sono fatte bene si può fare qualunque cosa, far ridere, far piangere, non... tutte le cose hanno la stessa dignità se fatte correttamente. Vi chiedo come possiamo avvicinare sempre di più anche i giovani a questo mondo bellissimo del teatro. Adesso non è per cadere nell'esterofilia, però ad esempio mi raccontava giusto Alessia che qualche tempo fa è stata a Berlino, che davanti al Berliner Ensemble, che è un teatro che ha una storia, fondato da Brecht, quindi, e c'era la fila fuori, e molto probabilmente molte di quelle persone che erano in fila non hanno neanche mai fatto un corso di teatro in vita loro, quindi vuol dire che in altri posti il teatro è nella cultura. Qui purtroppo non possiamo negarlo, non è così. Per avvicinare i giovani al teatro, niente, mi verrebbe da dire alzatevi, andateci. Sì, non abbiate paura, non c'è sempre questa cappa, questa ora di pesantezza, paura. Di paura. Il teatro può essere divertente, commovente, può far riflettere, ma in maniera anche leggera, nel senso che non c'è bisogno di essere pesanti, di essere tedianti. Soprattutto prendetelo un po' come potrebbe essere andare a un cinema o stare in casa a guardare la TV. Dovrebbe entrare un meccanismo per cui diventi quasi normale, no? Invece al cinema le file si creano, in teatro c'è sempre questa distanza e l'età media è molto avanzata. Secondo me purtroppo a volte è anche colpa di chi fa teatro e di quello che viene proposto e come viene proposto. Bisogna essere accattivanti, intelligenti, bisogna anche dare spazio agli attori giovani, nel senso probabilmente una clientela giovane può essere anche più interessata, no? Dal vedere persone più o meno coetanee, brave ma comunque coetanee, che fanno cose fresche, nuove o magari anche classici con qualche idea particolare. In generale però la qualità dal pubblico viene percepita, secondo me anche dal pubblico giovane. Ripetiamo l'appuntamento di sabato alle 21 al Teatro Meloncello. Noi di Radio Città Fujiko vi ringraziamo, vi auguriamo un grande in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie mille. Grazie mille, viva il lupo. E viva il lupo, viva la radio. Vi aspettiamo domani, ciao.